racconto. Io racconto. Racconto. Io racconto. Il mio cognome è Roberto. Suono la tastiera e canto. Faccio uscire quel che penso, quel che vedo, quello che sento. Ma cammino sempre da solo. Da quando sono nato, proverò a essere un esempio per la gente che incontrerò. Niente alcol, niente fumo, buono fuori, buono dentro, ma per sempre resterò un lupo solitario, sì un lupo solitario. Tutte le mattine mi alzo presto, una doccia calda e poi esco. Faccio un giro nel bosco, che la natura mi piace un sacco. Voglio sentire, sto attento, ma gli uccelli non cantano. Dalla vergogna se ne vanno e io più solo ancora divento. Ricomincio a camminare nel bordo della strada del tempo, perché mi hanno detto: chi va piano va sano e va lontano. Nessuno mi conosce bene, perché non voglio dare tutto il mio sapere e fare, così potrò fartelo scoprire. Nessuno mi conosce bene perché non voglio dare tutto il mio sapere e fare, così potrò fartelo scoprire più a lungo nel tempo con classe. Quello che non sono sai di me, forse ti stuferai ad aspettarmi, ma io vivo così ormai. Sono sempre io quello che ha torto, perché se sbaglio ridi e poi di un colpo mi fai un grandissimo abbraccio, perché hai capito il mio messaggio. Ho sbagliato ma ti ho salvato, era per te che l'avevo fatto. Tutti mi chiedono: non hai problemi adesso? Io rispondo: no, nessuno per il momento. Ma vanno e vengono, un giorno sei dentro un sogno, poi troppo tardi ritornano. Sono l'italiano che cammina sempre da solo. Devo camminare da solo, sono un lupo solitario che corre nel campo, che balla a fianco a tutto il mondo. Questo lungo viaggio è bello, è brutto, dipende dal tempo che trovo, che corre nel campo, che balla a fianco a tutto il mondo. Questo lungo viaggio è bello, è brutto, dipende dal tempo che trovo. Nessuno mi conosce bene perché non voglio dare tutto il mio sapere e fare, così potrò fartelo scoprire più a lungo nel tempo con classe. Quello che non sono sai di me, forse ti stuferai ad aspettarmi, ma io vivo così ormai.